c'è la Roma, è bello che c'è la Lazio e aspettiamo la Juventus. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La mette dietro, pericolo, traversa clamorosa, rete, Stasiewicz, flipper impazzito in area di rigore, Mladenovic, Baldini, attenzione, rete incredibile, Mladenovic, completamente fuori porta, Szczęsny, 2-0, Polocko, attenzione, Mladenovic, prova ancora, rete incredibile, 3-0, Salah, cerca Diego Falke, Gervinho tutto solo, rete, Gervinho, finalmente, parte un back cross, Gervinho, Torosidis, rete, rete incredibile, Torosidis, 3-2, tutto riaperto. Un pareggio forse non lo so se era così tanto meritato, anche perché il primo tempo non siamo scesi in campo, l'abbiamo preparata malissimo mentalmente noi giocatori, il secondo tempo è scesa indubbiamente un'altra Roma. Buongiorno a tutti, tutti convocati a Cersaie, Bologna, Fiera di Bologna, oggi trasmettiamo da qui con grande piacere. Con molto meno piacere abbiamo visto ieri una orrenda Roma, disastro giallorosso in Bielorussia, più o meno come Inter-Fiorentina, al trentesimo 3-0, solo che il batte Borisov non è la viola di questi tempi e lì Barcellona e Bayer Leverkusen vinceranno. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Come va lì a Bologna? Perfettamente. 800-24-00-24 o altrimenti siete in zona, venite a trovare, siamo qui, Fiera di Bologna. Come sta secondo te oggi Luca Telese? Catastrofe. Abbiamo avuto due giorni di orgasmi multipli con la lotta a spareggio tra Juve e Frosinone legati da un punto e poi il destino ti colpisce. Oggi godono i juventini, anche giusto, porca miseria. E gli juventini sì, sono in prima partita, perché stasera c'è una partita importante. Però insomma la domanda che faccio a Telese è: sei ancora con Garcia? Guarda, io credo in questo allenatore perché mi piace che ha la capacità di andare controvento e ti serve, lo ha dimostrato domenica scorsa col Carpi, ha puntato sui suoi giocatori, te lo dicevo, non li ha abbandonati. Qui credo che c'è stato un crollo. Intanto le frasi di Florenzi che avete mandato anche in integrale sono incredibili, perché non può accadere che un giocatore dica questo, cioè vuol dire che è accaduto qualcosa di molto grave, perché se dice non l'abbiamo preparata mentalmente, virgola, noi giocatori, ma cioè, in questa cosa è coinvolto l'allenatore? Quindi questa è una domanda che mi faccio. L'allenatore è per forza coinvolto, non può non esserlo. Sto chiedendomi quella frase, allora come mai Florenzi lo dice e quanto pesa? La seconda cosa è che penso che tatticamente la formazione che lui ha emesso, che poi ha corretto, la seconda Roma doveva essere la prima, cioè con Florenzi davanti e una protezione è dietro. Chiaro. La Roma ha avuto più proiezione offensiva quando ha messo Toro. La terza cosa è c'è il fallimento di alcuni giocatori drammatico. Il primo di tutti è Iturbe. Non prende un pallone e poi non, nessuna squadra al mondo, in nessun stadio del mondo, soprattutto in uno stadio federale siberiano dove si mena e si corre, può permettersi tre pallettari che provano 10 dribbling e non ne riescono neanche uno. Quindi nella scala Salah è stato inguardabile, Iturbe non doveva neanche andare in campo perché neanche si doveva porre il problema, e Gervinho ha fatto Gervinho, ma uno te ne puoi consentire, ma non due, perché quelli andavano come treni, come matti. A me mi ha impressionato al 70esimo quella palla recuperata sul fondo con Manolas che deve andare in tackle perché parte un turbo, un missile dopo 70 minuti di gioco, con questa forma fisica hanno avuto loro. L'ultima cosa è un dettaglio, io mi ricordavo Sinchievich al Cagliari che non è riuscito neanche a giocare una partita, credo, e ieri sembrava Maradona, cioè ci sono anche delle cose strane. Comunque, disastro. Luca, posso sottolineare... Disastro. Ma l'hai fotografato perfettamente, secondo me, disastro. Il disastro della Roma. Io do due cifre, che sono queste. García in carriera, in Champions League, ha giocato 20 partite, ovviamente non tutte con la Roma, e il bilancio parla di 3 vittorie, una delle quali con la Roma, l'anno scorso la prima in casa, squillante, contro il CSKA Mosca, da lì in poi... più nulla, poi ha fatto 6 pareggi e 11 sconfitte. Mi limito a buttare lì questo numero. Difficile scegliere il peggiore tra García e Szczęsny ieri sera, che anche il portiere giallorosso è stato un disastro, però è chiaro anche che in questo momento del poi Szczęsny, cioè hai la possibilità di avere un giocatore, io quello che mi ricordo del Carpi dal punto di vista iconografico televisivo è quel sorriso sfavillante. Non avevo mai visto De Santis sorridere così. Cioè, un giocatore in forma. Tutte le squadre poi hanno di solito un titolare in Coppa e un titolare in campionato. Szczęsny ha appena recuperato, tienilo fuori e tieni dentro quello più in forma. Cioè, ci sono delle cose che io non riesco a capire. Ma io il mistero del turnover questo... e il mistero della formazione di ieri. Sì. Ma su questo Szczęsny ha iniziato la stagione da titolare e l'aveva iniziata molto bene, quindi francamente era stata una colpa. Se era recuperato fisicamente, dargli una colpa di questo, io non me la sento. A me sembra più che altro che il percorso di crescita che questa squadra ha avuto c'è una differenza, adesso non mi ricordo a memoria i numeri, ma tra le prime 50 panchine con la Roma di García e le seconde 50 partite la differenza è stata enorme. E mi quindi sembra... dici che qualcosa si è rotto, Pierluigi? Io dico di sì, abbastanza. Però non diverso. È García, cioè García può fare gli errori, ma alcuni errori sono dei giocatori che danno delle prestazioni che ti sbilanciano, perché veramente, però voglio dire, i Turbe non può provare 10 dribbling e non gliene riesce uno. Ho capito Luca, però c'è uno che sceglie di metterlo in campo, cioè uno che è pagato per scegliere chi metterlo in campo. Tiago Falchi, c'è una bellissima frase di Dotto, ha messo Tiago Falchi e dice bello, lucido e incerottato, ed è vero, Tiago Falchi ha dato subito la solidità, probabilmente García avrà detto prima proviamone uno che è in forma e poi mettiamo l'incerottato. Sì, io penso questo, penso che l'allenatore, esattamente come Winterkorn, si è dimesso dalla Volkswagen per lo scandalo, cioè nessuno di noi sa fino in fondo è stato lui a dire taroccate tutto, probabilmente paga per una responsabilità oggettiva l'allenatore, se i giocatori non rendono, cioè alla fine è la sintesi, sì, una parola giusta, sono d'accordo, non te lo dà. Sono d'accordo con te Pierluigi, ma poi secondo me quelle parole di Florenzi che abbiamo fatto sentire, e tra poco ne sentiremo delle altre, sono molto pesanti e importanti, cioè suonano un punto di rottura tra chi deve preparare una squadra e chi va in campo e dice non sono stato preparato. Fermiamoci un attimo per il traffico, che se no sforiamo troppo, poi torniamo subito. Pierluigi Pardo, Luca Terese, Silvio della provincia di Cuneo, 800 24 00 24, il numero verde, altre voci di García e di Florenzi in questo giorno difficilissimo per la Roma, anche perché non dimentichiamo che l'anno scorso da problemi in Champions League andò a rotoli tutta la stagione, perché il punto di rottura l'anno scorso fu ovviamente quella terrificante sconfitta interna con il Bayern Monaco. Strade. Ma come si dice? Buonasera. Dobrivece. Andiamo così allora. Tutti convocati. Tutti convocati. Ovviamente il gioco è fatto di errori, ne abbiamo fatto più di loro questa sera, ma almeno il secondo tempo abbiamo fatto di tutto per prendere dei punti che meritavamo, non di vincere, perché fare un primo tempo così 0-3 non si merita vincere, ma il punto penso, soprattutto con il secondo tempo, lo meritavamo. No, non abbiamo letto bene la situazione, Fede, loro attaccavano molto bene a sinistra, sapevamo che il loro terzino sinistro spingeva tanto e non siamo riusciti a prendere appunto le contromisure come dovevamo fare, insomma. è solo colpa nostra. E mi pare che di nuovo non parlino la stessa lingua Garcia, che abbiamo sentito per primo, e Florenzi, che abbiamo sentito però come qui secondo. Lui sta parlando di Gervinho e di Turbe, non sta parlando non per cioè sta parlando del terzino che avanza, dice io sto solo sulla fascia, se mi lasciate due che corro come matti, no, le contromisure vuol dire torna, è tremendo che si parlino via Mondovisione, però appunto, questo mi pare appunto è ma così Luca Telese, che sia questo, cioè di che sta parlando di quei due, dice non è certo, che ma deve lasciarmi da solo contro tutto il Bate Borito. Certo Luca, ma Pierluigi, deve parlare Florenzi a nome del gruppo? Deve parlare Florenzi a nome dell'allenatore? Tocca a Florenzi correggere le distorsioni di una squadra improponibile nel primo tempo? Pier? No, io sono dell'idea che, allora, premesso che Roma è una città complicata, nel senso che la storia della Roma è una storia negli ultimi anni di una buona squadra, mediamente un'ottima squadra a tratti, con tanti secondi posti e tanti allenatori che sono stati messi in discussione anche dopo aver fatto bene. È successo a Spalletti, è successo a Ranieri, che pure aveva sperato lo scudetto, sta succedendo a Garcia, quindi questo è il primo elemento fondamentale, per non parlare di Luis Enrique, per non parlare della stagione disgraziatissima con Zeman e Andreazzoli. Problema. Stiamo parlando evidentemente di una piazza non facile, ma non così, cioè, lo dicono i numeri, lo dicono i dati. A me sembra però che un certo tipo di percorso si sia interrotto e francamente non credo che ci siano più molti margini per recuperarlo. Cioè, sarei molto sorpreso, ti dico la verità, sarei molto sorpreso di vedere questa squadra risorgere in maniera clamorosa in questo modo. Ma ti faccio una domanda. Ma magari la Roma, magari anche per colpa di Garcia, magari è diventato anche un alibi. Cioè. No. Ma se la Roma vince a Palermo, secondo te non tutto questo non si cancella? Secondo me la Roma ha una possibilità ora per uscire alla grande, e Garcia per uscire alla grande. Deve vincere a Palermo. Semplice, punto. E deve risolvere, non ci dimentichiamo anche il problema che non ha due centravanti fortunati, voglio dire, no? Sì, non può essere un alibi, Luca, però non può essere un alibi, perché è una rosa profonda. Io penso che Garcia, se guardiamo i numeri, sia uno degli allenatori migliori, ha fatto delle cose. Io mi ricordo Garcia quando ha ripescato questa squadra dopo i tafferugli post finale di Coppa Italia, col morale sotto i tanti. Garcia ha preso questa squadra con Venditti che diceva non suonate più l'inno mio dentro quello stadio, l'ha presa nella polvere, è salita l'aspettativa perché quest'uomo ha preso due secondi posti con tutto quello che sappiamo. Adesso c'aveva mezza squadra in infermeria, perché questa pure è una realtà, e la formazione che qualcuno dice sbagliata da Garcia, secondo me viziata anche dal fallimento di alcuni giocatori, è una formazione che comunque è in emergenza. Sì, resta però uno scollamento, secondo me, in quelle parole di De Rossi. Bisogna anche capire da che parte sta la squadra, onestamente, parliamoci chiaro. Cioè, sì, è ancora un gruppo unito, compatto, intorno all'allenatore, se la società protegge l'allenatore o se cominciano a uscire queste voci. Perché Florenzi fa questo giacuzzi? Secondo voi, quello che mi sta dicendo è che Florenzi percepisce una sfiducia societaria? C'è una sfiducia della squadra? Florenzi dice una cosa a caldo dopo la partita e non credo che questa cosa sia esplicitamente una sconfessione di Garcia, anche se può sembrare. Io credo che ci fossero dei mugugni o comunque un dibattito, cioè io credo, quello che ho letto sui giornali, non è che io abbia chissà quali notizie, quello che abbiamo letto tutte le sere sui giornali è che comunque il livello di fiducia attorno all'allenatore era calato già da un po'. Adesso è chiaro, siamo in una condizione ovviamente di inizio stagione, la mia sensazione è che possa diventare un alibi per i giocatori questo tipo di situazione, tutto qui. Poi Garcia rimane secondo me un allenatore che ha, come dice giustamente Luca, riportato la Roma su livelli importantissimi, ha alzato, non dal sesto ma dal secondo posto, ma assolutamente ha ottenuto due secondi posti, però oggi questa squadra qui perché no, se no mettiamoci d'accordo. Io non sono sicuro che questa squadra, come in tanti dicono, sia lo scudetto. Cruciani dice che dovrebbe vincere lo scudetto a spasso. Per me non è tecnicamente la squadra, una squadra che dovrebbe vincere lo scudetto a spasso. Per come, no, per però non ha tutte, tutte le potenzialità. Allora, se ha tutte le potenzialità, sta facendo meno. Scusate, allora, se questa squadra qui è la favorita del campionato, con la Juve che crolla, tolta la Juve, se questa squadra qui è la favorita del campionato, allora sta facendo male. Non è che è matematica, è statistica. Sì, ma secondo me la realtà è questa. Cioè, adesso Luca ha ragione a dire, vediamo, una vittoria a Palermo potrebbe incerottare, mettiamo così, le cose. Il problema però non sarebbe risolto, Luca. Tra l'altro oggi circola il nome di Ancelotti a Roma, è intervenuta con il solito tweet Francesca Brienza, la compagna di Garcia, che dice: ma Ancelotti salirebbe su sta barca? Non so se Ancelotti salirebbe su sta barca, però Garcia potrebbe scendere da quella barca. Per chiudere, Luca. Ehi, eccoci. No, scusami, diceva, che è andato via un attimo l'audio. Non so, ogni tanto va via. No, dicevo che circa il nome di Ancelotti, che è stato smentito dalla signorina Francesca Brienza, compagna di Garcia, che dice: ma Ancelotti salirebbe su sta barca. Non so se una vittoria a Palermo potrebbe essere l'aspirina, il cerotto da mettere sulla frattura, o un modo per ripartire. Vi dico quello che penso: che Ancelotti rischierebbe di essere come Mancini l'anno scorso all'Inter, e che un esonero in questo momento non aiuterebbe la squadra, oltre che costare 2 milioni di euro. E penso che se la Roma vince a Palermo, tutte queste chiacchiere si azzerano e si inizia a dire che forse ce la può fare anche in Coppa se vincono con gli interessi. Sì, però poi devi vincere con Leverkusen, cioè. E lo vince, lo fa. Si carica. È un percorso tutto da fare. Sì, se vince a Palermo, però ha vinto anche con il Carpi. Sebbene Io sinceramente non vedo un'evoluzione. Non vedo un'evoluzione dall'inizio della stagione. La Roma ha fatto, secondo me, una grande partita quest'anno con la Juve, indiscutibilmente, una grande partita. Anche se poi chiaramente, insomma, i risultati della Juve portano anche questo tipo di partita un pochino a ridimensionarla, nel senso che questa partita bellissima l'ha fatta anche il Napoli. Detto questo, ha fatto una grande partita con la Juve, senza se e senza ma. Ha fatto una buona partita contro il Carpi e una grande partita di sofferenza contro il Barcellona, una grande partita difensiva con il Barcellona. Per il resto, io l'ho commentata a Verona e non mi è piaciuta. A Frosinone ha vinto, ma non ha brillato. A Genova ha fatto una buona partita, per carità, migliore di tante altre, però alla fine il risultato conta. Col Sassuolo non ne parliamo. Ma il bilancio ad oggi è un bilancio negativo, ma le cose vanno dette, perché se no si perde, secondo me, la rispondenza con la realtà. Poi è evidente che Garcia sia un buon allenatore, l'ha dimostrato, che ci sia una difficoltà in certi momenti nel mantenere l'equilibrio. Su questo non ci sono discussioni. È chiaro che oggi c'è un eccesso di critica su Garcia, è indiscutibile a Roma, però è anche vero che, guardando invece laicamente la situazione, se questa è una grande squadra, come voi dite che è una squadra che può vincere il campionato, allora deve pensare alla cosa più saggia, più logica e più giusta da fare per vincere il campionato. È più probabile vincerlo con Garcia o cambiando allenatore? Io non lo so. Non sono d'accordo. Dimmi, Luca, dimmi. Hai cantato il De Profundis e l'esempio dell'Inter ti dice che una grande squadra ha più difficoltà di una piccola a fare quel terremoto. Penso che Garcia non abbia tutte le responsabilità, che ci sia qualcosa anche che è sotto, come per esempio la mancanza di un secondo attaccante anche di riserva. Borriello, che ti fa il gol dell'ex, vuol dire pure a cavolo potevi. Uno che fa da riserva, se il centravanti titolare si rompe, ci deve essere la terza punta, come lo volete chiamare. Cioè, ci sono 9 attaccanti, di cui 6 sono ali, 7 sono ali. La squadra l'hanno costruita insieme, beh, o no? Se non l'hanno costruita insieme, è ancora più grave, perché vuol dire che. No, ma poi ci sono anche degli equivoci. Turbe era già al Genoa, perché poi. Era già al Genoa. Gervinho hanno provato a venderlo in tutte le maniere, non ci sono riusciti, nemmeno gli Emirati Arabi, e quindi è chiaro che ci sono anche dei giocatori che sanno di essere degli indesiderati. Calcola anche, ma vogliamo dirne un'altra, perché poi non ha sfigurato che c'è un centrale di meno. Perché De Rossi non è in difesa, perché sta facendo, secondo me, ieri bene nella catastrofe il centrale. al posto di Castagna. Resta soluzione d'emergenza con Castagna ancora non recuperata. Parliamo d'emergenza, è in Angolan che sta facendo il regista perché non può stare nel suo ruolo, dove rende il doppio. Ci sta perché sta in emergenza. Cioè c'è una rosa anche che è corta, a cui manca, se ci pensi, un pezzo importante in attacco, un ricambio importante in attacco, un importante ricambio in difesa. Benissimo, quindi vuol dire che la Roma non è da stretto. Beh, ha una rosa che deve essere integrata, c'era pure l'Inter, deve essere integrata la rosa, pure la Juve deve essere integrata la rosa. Posso anche essere d'accordo su questo, io sono convinto che la Roma abbia aggiunto tantissimo talento comunque con Dzeko e Salah, al di là delle oscillazioni di rendimento di tutti e due. Certo. Però secondo me Salah ieri era un mistero, Salah ieri è un mistero, perché se Salah metteva dentro quel gol a porta vuota. Fuori... Sì, detto questo, va bene ragazzi. Break. Io saluto e ringrazio Luca Telese. Ciao Luca, è sempre un piacere. È sempre un piacere. Perché non le manda mica a dire. Pierluigi sta lì, sentiamo la borsa, ci sono ascoltatori in linea già da un pezzo, 800240024, continuiamo questa discussione, ci proietteremo sulla Juventus, su Mr. B che sta incontrando Berlusconi, insomma tutte queste cose tra poco, dopo la borsa. Sorriso amaro per lui, spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Dunque, mi pare che il quadro della Roma sia delineato più o meno e si assomiglia a una specie di urlo di Munch. Ascoltatori 800240024, Pardo sta tornando, Silvio provincia di Cuneo, Jacopo da Pistoia. Ci sei, ok. Ieri il Piccinino non ha detto neanche una volta eccezionale, giusto per la cronaca. No, non l'ha detto. Neanche una volta. Eccezionale. Ma non l'ha detto ieri, non ha pronunciato eccezionale nemmeno una volta. Ha conteggiato Giorgio De Luca, il nostro dottore. Silvio, buongiorno. Wow, dopo 32 minuti, fantastico. Io chiedo scusa. No, ma non è problema. Tanto sono felice di parlare con voi. Io sono uno juventino. Ieri sera ho sofferto per vedere una Roma così. E ho giusto a vedere una bella Roma dopo. Per favore, togliamo lo stereotipo che uno deve fare contro. Io venerdì, ho giocato Fiorentina-Inter, Fiorentina perché giocava meglio, anche se per me potevano perdere tutte e due, però basta parlare che uno ti fa contro. Stasera ti sono Juve, sono juventino, e tanto se perde fa una partita che fa schifo, tornerà a casa con le ossa rotte ugualmente. Sì, Silvio, lei è un rarissimo esempio di enorme sportività. Poi sul tifo contro, sa, io e Pardo siamo, come dice lui, laici, quindi non ci disturba, c'è nessuna possibilità di imporre un sentimento, quindi io posso anche dire bisogna tifare per le squadre italiane, ma se uno vuole tifare, gufa, non è che e non è peccato, non è che poi deve andarsi a confessare subito dopo. Deve seguire il suo sentimento, quindi se uno vuole gufare la Roma ieri, la Juve oggi, lo può fare, e non c'è niente di riprovevole. In generale nel calcio come al Palio di Siena, lo sappiamo. Ma certo, bene, ma anche perché all'estero non è che sia molto diverso, non è che quelli dell'Arca stanno per il centro, quelli del Barça tifano il Real o viceversa, Diverso secondo me, è essere soddisfatti complessivamente della crescita, quando il calcio italiano va bene, esserne comunque felici, come valutazione diciamo più razionale. Poi nessuno pretende che il tifoso anti-juventino a Berlino stia lì con la bandiera della Juve, è ovvio che Gufer è contento che picca il Barça ed è la cosa più normale del mondo, però credo che tutti possiamo essere felici del fatto che lo scorso anno ad esempio il nostro calcio ha ridato segni di vita, e l'augurio che facciamo è quello che il nostro calcio ridia dei segni di vita. Poi è ovvio che ognuno tira per la sua squadra, questo certamente. Allora, sempre in diretta da Bologna, Fiere, Cersaie, Jacopo Pistoia, buongiorno, anche lui ha aspettato una quaresima. Una vita, buonasera. Una quaresima. Buonasera a tutti. No, io sono tifoso della Roma, quindi per me c'è una Roma di Garcia ante Bayern e dopo Bayern, perché da dopo questo personaggio credo che sia andato in confusione e stia dimostrando i limiti tattici ogni domenica, perché noi non abbiamo visto niente di nuovo. È un anno che fa il solito gioco, che si arriva lì al limite dell'area e non c'è una soluzione nuova. Il fatto emblematico penso sia ieri sera: si parte in 16 con due primavera e 44 giocatori infortunati e non c'è un cambio, non c'è un 4-4-2 semplice da dire aspettiamoli, cerchiamo di arrivare in fondo perché siamo più forti, un gol si trova, no, il tridente con un giocatore che non la prende mai ormai da due anni, senza nessun cambio, costretto poi a tornare indietro a fare un 4-4-2 sul 3-0 e a dover mettere giocatori mezzi e mezzi recuperati da ultimo col rischio di infortunare anche quelli. Cioè, secondo me è proprio tatticamente che questo personaggio non dà niente. E fino al Bayern gli è andato tutto bene, c'è stata la novità, la Roma era veramente... Non fu solo il Bayern, fu anche Torino, la Juventus, tutta una stessa settimana. C'è stato una Roma ante, una Roma post quella settimana. Sconfitta di Torino con tutte le polemiche, con Garcia che dice vinceremo lo scudetto, i sette schiaffoni presi dal Bayern di Monaco, e da allora un'altra squadra. Perché Juve-Roma arrivò pochi giorni dopo Manchester-Roma, però insomma non cambia la sostanza. Diciamo il periodo è quello, ottobre 2014, ottobre. È stato il momento in cui è girato tutto. No, ma io non sono così drastico, nel senso che non penso ad esempio che Roma Juve di quest'anno sia avvenuta 10 anni fa, allora da Garcia non è tutto così catastrofico. È un punto secondo me di capire quelli che sono gli obiettivi della stagione, partendo dal presupposto poi che questa squadra qui di allenatori ne ha massacrati parecchi, questo ambiente qui di allenatori ha massacrati parecchi. Non dimentichiamoci veramente come è stato trattato Spalletti, cioè Spalletti è andato via dopo due giornate, dopo una sconfitta con la Juve, ed è stato l'allenatore che aveva riportato la Roma a certi livelli. Ranieri sfiorò lo scudetto, in certi momenti quella Roma fu anche fortunata sicuramente fino a quel 25 aprile, però comunque Ranieri fece un'impresa e l'anno dopo è crollato miseramente. Mi sembra francamente che insomma siamo alle solite. Faccio fatica però a immaginare, cioè io faccio forse per colpa dell'ambiente, per le specificità, però non mi ricordo una situazione di uno di questi allenatori così discusso che riesce a Roma a risorgere in grande serenità, come dice Telese, con una vittoria dopo l'altra. Non me lo ricordo, mi ricordo. Non c'è un allenatore che è finito nel sabbia mobile ed è riuscito ad uscire. Gli allenatori vincenti della storia della Roma sono Lidl e Capello, che sono stati due allenatori indiscutibili, indiscussi. Poi Lidl ha avuto una fase in cui ha fallito successivamente, però voglio dire, hanno ottenuto dei successi in quel momento lì, erano dei totem assoluti. Insomma, io molti altri sono stati bruciati, è una figura compreso. Che mi piace. Compreso uno che si dice potrebbe tornare, un nome che rimbalza potrebbe essere anche quello di Vincenzo Montella. Io saluto Mirko Graziano, Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao, ciao a tutti voi. Così viriamo sull'altra delle... Dove sei? A Torino. Sei già lì in attesa di questa Juve su cui piove in continuazione. Insomma, questa sera si aspettano delle risposte. Intanto c'è stato il caso Cáceres messo fuori rosa, per il momento accantonato, ma soprattutto c'è il caso di Steiner che ha di nuovo problemi dopo il malore con il Frosinone, si è allenato con la squadra, poi nuovi controlli, lui dice ci vorrà tempo e pazienza, e quindi anche Rick Steiner è fuori. Questa sera si aspettano delle risposte dalla Juventus, però. Sì, ci aspettano delle risposte forti, anche per poi prendere la giusta spinta in campo nazionale, dove la Juve sta pericolosamente frenando. Dico pericolosamente perché non c'è tanto lo scudetto da difendere, questo sì, ma insomma dopo quattro titoli si può anche abdicare, ma va soprattutto avvicinata più presto alla zona Champions League, quella sì vitale per qualsiasi grande club, e continuando a frenare potrebbero essere guai. In questo senso, cercare di ipotecare al più presto il passaggio agli ottavi di finale potrebbe aiutare non poco ad Allegri a ritrovare un minimo di serenità e a poter insomma incominciare a costruire qualcosa di più concreto tatticamente rispetto a quello che si è visto finora. Sì, allora fermiamoci un attimo per il traffico, poi torniamo su questo discorso. È curioso notare come le due grandi favorite per lo scudetto, per il titolo, quantomeno per il titolo italiano, Roma e Juventus, si stiano attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, e forse sarà l'Inter a ridere sarà Mancini a ridere in questi giorni. Traffico. Però il pubblico è un po' moscetto. Tutti convocati. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta Tutti convocati. Allora, stiamo parlando dell'altra grande convalescente, con Mirko Graziano della Gazzetta dello Sport e ovviamente con Pierluigi Pardo. Pier, tu trovi qualche somiglianza, qualche similitudine, qualche affinità tra queste due situazioni di crisi? No, Roma-Juventus. Non particolarmente, nel senso che la Juve... Storie diverse. Sono storie diverse, la Juve che viene moltissimo, viene comunque da anni di grande successo, anche da Roma viene da anni di successo, cioè i secondi posti, soprattutto nel calcio di oggi, con la Champions, con tutto ciò che comporta, lasciano la mare in bocca ai tifosi, ma sono certamente dal punto di vista... il risultato sportivo un ottimo risultato, cioè, da questo punto di vista, ecco, potremmo essere dito di coda per Garcia, ma nessuno gli può togliere il fatto di aver riportato la Roma in questo tipo di dimensione, quindi questo è indiscutibile. No, non vedo grandi analogie, penso sinceramente che la Juve stia vivendo una fase di profonda ristrutturazione, di profonda rivoluzione dei protagonisti, e le cose insomma miglioreranno. Sono d'accordo con Mirko che devono migliorare in fretta, perché il vero obiettivo è il terzo posto, il vero obiettivo è andare in Champions League, che sappiamo è importantissima per le casse della società, e mai come quest'anno vedo un equilibrio in testa alla classifica molto aperto a tante soluzioni diverse, il che da un lato rende ancora possibile addirittura centrare il primo posto, ma dall'altro rende piuttosto complicato secondo me evitare il posto tra le prime tre. Perché ci sono, perché c'è il Napoli, perché c'è la Roma, perché c'è l'Inter che è tornata, perché il Milan comunque ha dei numeri che potrebbero migliorare, perché la Lazio è sempre una realtà, la Fiorentina sta facendo benissimo, il Torino, cioè è veramente un bellissimo campionato dal punto di vista dell'equilibrio, ma è chiaro che cominciano ad essere tante davanti alla Juventus, ma anche alla Roma. Mirko, eppure... No, certo, ma volevo dire, non ci saranno similitudini tra le due situazioni, però anche su Allegri ci sono molte voci, intorno ad Allegri ci sono molte voci. Sì, inevitabilmente, perché poi quando frequenti certe piazze non è che ti puoi permettere pause troppo lunghe, gli interessi sono tanti, sia a livello di cuore ma anche a livello economico. Per quello che so io, Allegri non rischia nulla, almeno fino a dopo la pausa, anche perdendo stasera, anche... magari facendo un ennesimo passo falso col Bologna domenica, ecco, poi in questo caso Allegri non dovrebbe correre nessun rischio, gli è stato riconosciuto l'alibi dei moltissimi infortuni, di una preparazione iniziata tardi per cause di forza maggiore, accelerata immediatamente per via della Supercoppa a inizio agosto in Cina. Dopo però, a ranghi compatti, è chiaro che la società vuole vedere crescere subito la squadra a livello anche di risultati, di gioco, e vuol vedere anche valorizzati certi investimenti che finora sono stati tenuti, diciamo tra virgolette, pericolosamente ai margini, sì. Penso ai 40 milioni di Dybala, ai 26 di Alexandro. Quindi sì. Certe risposte Allegri dovrà darle da metà ottobre in poi, assolutamente. Ma io credo che le risposte arriveranno, perché la rosa della Juventus è davvero una rosa molto importante. Il mercato, come diceva il presidente Piera, è stato fatto all'insegna del rinnovamento che andava fatto. La Juve non ha commesso l'errore di altri grandi club, vedi Milan, vedi Inter nel 2010. Finito un ciclo, ha rinnovato profondamente, ha pescato molto bene, secondo me, fra i giovani, ha un 10-11 giocatori nati negli anni 90, no, certo, ora certo, deve andare alla ricerca del leader, deve andare alla ricerca di un grande campione che potrebbe arrivare nelle prossime sessioni di mercato, ma le basi gettate quest'estate sono basi importantissime. Io sono d'accordo con te. Un'ultima cosa, come valuti l'ingresso di Khedira direttamente dall'infermeria? È tornato in gruppo, si è preparato, ma non gioca da un sacco di tempo, questa sera bam in campo in una partita così di questo livello e di questa importanza. È la dimostrazione che questa per Allegri è un po' una di quelle gare senza ritorno, no? Hai fuori Sturaro, hai fuori mezzo centrocampo, hai Lemina che non sta molto bene, vai da Khedira e gli dici: "Uè ragazzo, dai tutto quello che hai, perché noi stasera non possiamo fallire, mi serve la tua esperienza, gioca con la testa, gioca come vuoi, ma abbiamo bisogno." Grazie Mirko, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, ciao. Grazie, grazie Mirko Graziano della Gazzetta. Sei d'accordo, Pierluigi, su questa mossa che dirà? Sono d'accordissimo sulla disperazione, sulla partita veramente dentro fuori, e sono anche molto curioso di vedere la Juve stasera, perché ho il sospetto che possa essere una squadra che fatica quest'anno soprattutto nella normalità delle gare, perché invece nelle grandi occasioni tira fuori il meglio, nelle grandi occasioni. Mi riferisco alla Champions League, questo ovviamente è l'auspicio in chiave bianconera. Per il resto è una partita complessa contro una squadra, questo dovrebbe aiutare, che sta vivendo gli stessi turbamenti, perché il Siviglia, che ha fatto quella meravigliosa Supercoppa europea che ho commentato, persa 5-4 al supplementare contro il Barcellona, che ha vinto le ultime due Europa League, tra l'altro una proprio allo Juventus Stadium, però ha iniziato piuttosto male la stagione, ha vinto soltanto sabato scorso la prima partita in campionato contro il Rayo Vallecano. Insomma, sta vivendo alla stessa situazione di classifica identica della Juve, 5 punti dopo 6 gare con una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, quindi sta vivendo una situazione abbastanza simile, quindi simile. La speranza in chiave bianconera, insomma, è che crisi contro crisi, insomma, non ti arriva una corazzata, non ti arriva una squadra. Due feriti l'un contro l'altro armati, insomma, due feriti l'un contro l'altro armati. Pier, prima di salutarti, farti andare a Torino a commentare questo Juventus Siviglia. Tra l'altro, vorrei sottolineare anche il Barcellona, non è che sta benissimo, perché per grande fortuna della Roma, ieri in rimonta ha vinto in casa contro il Bayer Leverkusen, e la Roma deve ringraziare Suarez, perché avesse vinto il Bayer Leverkusen quella partita, girone sarebbe già stato indirizzato. La situazione sarebbe stata drammatica, perché pensare al Barcellona fuori dalla Champions è abbastanza complesso, anche se è chiaro che con un punto e due partite avrebbe avuto anche lei i suoi problemi, e con gli infortuni di Messi e Iniesta, però insomma direi che è nettamente meglio così. La Roma adesso avrà le due partite col Bayer Leverkusen, nelle quali si giocherà tutto, poi deve vincere l'ultima in casa contro il Bate Borisov, e si gioca tutto nelle due partite col Bayer Leverkusen, quindi in queste tre gare potrebbe passare addirittura facendo 7 punti, quindi facendo 4 punti con Leverkusen e vincendo contro il Bate l'ultima. Però è chiaro che deve cambiare passo, torniamo al discorso che facevamo prima, e oggi è abbastanza difficile immaginare che questa squadra possa uscire da questo tipo di situazione, quantomeno in maniera improvvisa. Grazie per Luigi, buon viaggio verso Torino, ci sentiamo domani ovviamente alla stessa ora. Forse abbiamo ancora qualche secondo, ce l'abbiamo, sì, per Ugo da Napoli. Buongiorno Ugo. Non l'ho portato neanche, solo pensavo di portarvi qualcosa. Perfetto, ecco. Ha bisogno qualcosa? Serve qualcosa? Possiamo fare qualcosa per lei, Ugo? Eccomi. Ugo? Eccomi. Buongiorno. No, sentivo che stavo ordinando qualcosa. Bisogna qualcosa? Portiamo un caffè? Sì. No, io l'ho appena interrotto il caffè, devo dire. Però ne valeva la pena, perché ho da dirvi qualcosa di un po', insomma, spinoso, considerando che chiamo da Napoli, tipo del Napoli. Dica pure. Chiedevo un vostro parere sulla possibilità che effettivamente il Napoli possa arrivare, primo di 20 alla fine della stagione, laddove il nostro presidente dovesse uno stato di ebbrezza da capodanno comprare un difensore centrale, insomma, non credo che abbiamo bisogno di molto alto. L'ha presa la chiedo scusa, volevo semplicemente aggiungere, siccome ho sentito molto parlare della Roma, la Roma credo abbia comprato il portiere più scarso d'Europa, nessuno l'ha detto. A Londra sono scesi in strada quando hanno dato via Szczęsny, che ieri ha preso due gol da dilettante assoluto, perché la Roma ha giocato male. Ieri Szczęsny un disastro. Ieri Szczęsny un disastro. Handanovic non molto meglio domenica contro la Fiorentina. Non possiamo mettere in discussione ovviamente Handanovic, ma io non discuterei più di tanto nemmeno Szczęsny, secondo me. È un eccellente portiere, insomma. Quindi per quanto riguarda il lungo giro di parole che lei ha fatto, la prima di 20 e in un'ebbrezza di capodanno, se De Laurentiis prende un difensore, tanto mi sembra che per cominciare Sarri abbia trovato la chimica giusta. In questo momento Insigne è in questo preciso momento storico il più forte giocatore italiano. Higuain continua a timbrare il cartellino con regolarità giocando da leader. Mi sembra che su Napoli, Jorginho ha preso in mano la squadra, mi sembra che su Napoli ci sia un discreto sole, a differenza che su Bologna c'è molta nuvola, sono molte nuvole qui, sopra la fiera di Bologna. Vi aspettiamo subito dopo il giornale radio con le ultimissime sull'incontro tra Berlusconi e Mister B. State con noi. Non avete niente altro da fare? Tutti convocati. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24 Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimento necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Che dire, arieccice. Convocati. Allora, non so se prima ho commesso un lapsus, vedo un messaggio, ho detto vediamo come va, sentiremo come va l'incontro in corso tra, volevo dire Berlusconi e Mister B, forse ho detto Belinazzo e Mister B. È possibile? È possibilissimo, ammetto. Tra l'altro ieri siamo, lodiamoci un po', dai. Avete saputo da queste frequenze, da Marco Belinazzo, da questo programma, da tutti i convocati, che Mister B era in procinto di salire su un aereo che poi in effetti ha preso, è atterrato, è andato ad Arcore e credo sia ancora lì. Marco Belinazzo? Sì, posso confermare insomma, che l'incontro è in corso. Sì. Trapela un certo ottimismo. Di più al momento però non si sa, insomma si stanno discutendo i canonici dettagli, in realtà è qualcosa in più perché quello che dovrà essere messo ora nero su bianco è un percorso, una roadmap precisa per l'arrivo dei soldi, di questo vile denaro che dovrebbe arrivare alle casse della fine. Sarà vile, ma è tanto. Sarà vile, ma è vile, tanto. Ma è tanto, è tanto, e solo a quel tanto. Punto, insomma, ci sarà ovviamente il passaggio delle quote. E sul percorso, sulle tempistiche, sulle ulteriori garanzie da dare, insomma, si sta discutendo. Nelle prossime ore, naturalmente, avremo i dettagli almeno precisi, speriamo, più o meno precisi su quello che. Ma rimane comunque l'incontro di per una richiesta di proroga dei termini. Questo no, sì, Marco? Questo sì, abbiamo questa indicazione specifica, insomma, e il discorso, insomma, a questo punto, ripeto, è sui tempi, perché qualora dovesse essere chiesta una dilazione troppo ampia, è chiaro che da parte di Fininvest l'ottimismo scemerebbe rapidamente in un pessimismo di fondo, e cosa che potrebbe portare anche a mettere poi in dubbio l'intera trattativa. Però al momento è prematuro parlarne, insomma, tutti gli indicatori meteorologici, insomma, sono su un clima positivo, questo ci viene ripetuto, e questo riportiamo, insomma, anche dalle stanze di Arcore stanno arrivando questo tipo di messaggi, ecco. Sì, i contenuti sì, per il momento non ci si può sbilanciare perché sono oggetto dei colloqui che dureranno ancora un po'. Va bene, perfetto. Marco, noi ci teniamo in contatto, Marco Belinazzo, Berlusconi dal Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao, presto, alla prossima. Ciao. Dunque, avete capito qual è il clima, qual è il quadro, quello che si sta facendo nelle segrete stanze di Arcore. C'è anche Furio Fedele del Corriere dello Sport. Ciao Furio. Ciao, buongiorno a tutti, eccomi. Ti risulta tutto, insomma? Ma tutto quanto ha detto Belinazzo. Io ero rimasto alle parole di Berlusconi 2 settimane fa. È possibile, lunedì 14 settembre diceva che mancavano solo le firme. No, sbaglio? Al compleanno di Licia Ronzulli alle stelline. Sì, mi sembra di probabilmente gli hanno chiesto. Sì, no, ma gli era stato chiesto, ma le firme per il compleanno, le firme per il suo compleanno, lui ha detto un paio di giorni dopo, cioè oggi più o meno, no? Mancavano solo le firme, mi ricordo che c'era il collega, l'amico Pietro Guadagno quella sera fuori. E avevo visto, ho letto anche già da tempo l'organico, i nuovi organici del societari del Milan. Io sai, aspettiamo, resto in attesa e vediamo che cosa succede. È difficile fare. Sei pessimista? No, io sono realista, guarda, arrivo da Como, non so tu di che origine hai, però si parla di palanche, di Sghei e di Danè, e lì anche se è dialetto lo capiamo tutti. E qui non stiamo parlando dei famosi bruscolini, che non so nemmeno di cosa si tratta. Qui si parla di 480 milioni di euro, ed è chiaro che bisogna intervenire in maniera poderosa, anche perché con le chiacchiere ormai siamo sotto zero, non a zero. Però vediamo come se sarà possibile, penso di sì, visto che Mr. B è arrivato con uno o due giorni di ritardo a Milano. Probabilmente sollecitato anche dai vertici di Fininvest, che lo volevano avere delle garanzie, soprattutto su quelle che sono ed erano le sue intenzioni. Probabilmente chiederà una proroga, sicuramente gli verrà concessa questa proroga, però mi sembra che i tempi si stiano dilatando e parlando comunque di una cifra così importante, bisogna intervenire in maniera molto ti ricordi che anche la trattativa tra Moratti e Toir fu lunga, con pause, interruzioni, riprese, eccetera. Cioè, si tratta di qualcosa di molto complicato, questo possiamo sicuramente dire, no? però mi sembra anche di intuire che a casa Milan non ci sia unità di intenti su questo aspetto. E poi fra l'altro nel nuovo organigramma presidente Berlusconi, ma il vicariato a chi lo dai? Cioè nel caso in cui il presidente Berlusconi appunto non possa esercitare, perché è all'estero, perché è altrove, o nel momento della situazione proprio contingente, chi avrebbe la facoltà di poter decidere? Se ricordi bene, e lo ricordi meglio di me, c'era stato anche un avvicinamento di situazioni esterne al Milan per quanto riguarda il mercato, e non mi sembra che ci sia che abbia avuto molto successo. No, non grandissimo successo. No, direi proprio di no, anche con figure che potevano essere evitate. Non lo so, sai, io sono molto pragmatico, quindi aspettiamo con molta tranquillità. Ma queste voci su un possibile ritorno di Braida da in rotta con il Barcellona, che oggi suonano da tutte le parti, può essere inquadrata in questo contesto? Nel contesto, cioè che? Nel contesto di un rafforzamento della società o di una ristrutturazione dell'organigramma societario, insomma, può centrare qualcosa con questa vicenda? Guarda, legata alla cessione del Milan e ritorno di Braida? Ariedo Braida in realtà ha ammesso che potesse correre dei rischi, e lo ha fatto nello scorso luglio, ricorderai, nel momento in cui ci poteva essere un avvicendamento alla presidenza. L'attuale presidente è stato anche quello che l'ha voluto, probabilmente come monitor principale sul mercato straniero, su quello italiano. Stiamo parlando innanzitutto di un grande amico, ma anche di un ottimo professionista. Ma non saprei, non penso che il ritorno o meno di Braida in questo momento possa rappresentare non solo un problema, ma anche una priorità. Qui si tratta in questo momento di parlare del futuro del Milan, dove abbiamo una proprietà ben presente, come rappresentata dal presidente Berlusconi, e soprattutto non sottovaluterei la presenza dei figli e soprattutto di Barbara, che fino a prova contraria è vicepresidente e amministratore delegata. Qualcosa pur conterà lei, ovviamente. Mi sembra che la situazione sia estremamente complicata, al di là, e non è poco, dei 480 milioni che ancora devono essere bonificati tramite l'IBAN della Fininvest. Senti, invece passando al campo, ieri è stato il giorno di quello che Ferguson chiamava l'asciugacapelli, o che i giocatori di Ferguson a Manchester United, Beckham in testa, chiamavano l'asciugacapelli, cioè la squadra strigliata da Galliani. Ma mi ha fatto specie il fatto che tutto questo sia accaduto dopo appena 6 giornate dall'inizio del campionato. Che è coinciso stranamente anche col primo esonero del primo allenatore in Serie A, stiamo parlando del Carpi, una neopromossa, sicuramente una società e una squadra che non ha l'esperienza e per il momento il blasone del Milan. Il paragone non è, mi sembra, completamente azzardato, perché cioè io bazzico Milanello per fortuna da una trentina d'anni, è un dato positivo per quanto mi riguarda, e non mi era mai capitato di assistere a uno shampoo, chiamiamolo così, visto che dopo appena 6 giornate. La differenza rispetto agli anni scorsi è che ballano sempre 90 milioni, scusami il mio pragmatismo economico, perché la differenza tra Mihajlovic e chi l'ha preceduto in particolar modo Inzaghi, ma anche lo stesso Seedorf, il penultimo e l'ultimo Allegri, e che qui sono stati investiti 90 milioni di euro, la cifra record a memoria non solo d'uomo ma di bilancio del mercato, dei mercati che ha affrontato la presidenza Berlusconi, e non mi sembra anche questo un dettaglio da sottovalutare. Ma Sinisa ieri ha preso una strigliata anche lui, ovviamente in separata sede rispetto alla squadra, oppure oppure no? Paramianovic bisogna riconoscere che ha sempre avuto un grande senso dell'autocritica, di autocritica, perché comunque si è sempre proposto in prima persona, comunque se non sul banco degli accusati, sicuramente sul fatto che questo Milan non sta rendendo come dovrebbe. E ci sono dei dettagli da non trascurare, ad esempio a Udine all'inizio del secondo tempo, dopo un primo tempo da manuale complice anche l'Udinese, c'è stato il cambio di Calabria al quarto minuto con Zapata spostato a destra e Alex centrale, un cambio ancora adesso di cui non si è ben capito la giustificazione. E nel giro di 6 minuti, se non sbaglio, l'Udinese ha segnato 2 gol e soltanto Diego Lopez nel finale ha evitato una beffa tremenda che avrebbe avuto conseguenze molto più gravi sotto tutti i punti di vista. E c'è stato, ricorderai, la partita contro l'Empoli in casa, la formazione italiana iniziale con Suso e Nocerino, poi anche loro sostituiti per scelta tecnica. Ma io quello, guarda, l'ho interpretato come un messaggio alla società, a mercato ancora aperto. Ho capito, però capisci anche che non vorrei fare paragoni un po' azzardati, ma Mihajlovic è stato ingaggiato oltre che per le sue indubbie qualità di tecnico, anche perché è un ottimo gestore di uomini e un ottimizzatore, nel senso che Suso ha voluto trattenerlo lui, lo stesso Nocerino si dice che abbia convinto Mihajlovic a trattenerlo, proprio perché comunque è un giocatore di grande temperamento e poteva servire anche alla causa rossonera. Deve essere l'allenatore che decide la formazione, a maggior ragione quest'anno, conoscendo Mihajlovic. Ed è chiaro, ti ho fatto 2 esempi dove mi sembra di capire tu sei d'accordo con la mia analisi, evidentemente ci sono state delle responsabilità ben precise. Sul fatto poi, consentimi, che il Milan conceda un tempo tutte le partite all'avversario, e anche qua non penso sempre che sia una cosa da psicanalisi, perché il calcio è uno degli sport e degli ambienti più semplici al mondo, almeno quando lo giochi, no? Assolutamente. Credo quella sia stato uno dei principali punti d'accusa di Galliani alla squadra. Insomma, non è che si può regalare un tempo un tempo a Genova, un tempo a Udine e con l'Empoli. Insomma, le partite durano 90 minuti, no? Però è chiaro che con Mihajlovic tutto questo non era stato previsto e prevedibile, proprio per la forza, le caratteristiche, il temperamento, la preparazione, anche la presenza fisica in campo, che Mihajlovic comunque ti incute timore, forse anche terrore, sicuramente non ti fa vivere tranquillo in campo, e se hai carattere, se hai forza, se hai orgoglio, lo tiri fuori. Così evidentemente non sta succedendo. No. Grazie Furio, alla prossima. A voi. Grazie buona davvero. Giornata. Grazie Furio Fedele, inviato del Corriere dello Sport. Emanuele Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buon pomeriggio. Ascoltavo con attenzione. Mi preme parlare più di campo che più delle mie defilo, insomma, dalle dinamiche societarie. Esatto, dinamiche societarie, come direbbe Pardo, societarie. Parlando di Roma, insomma, concordo in parte con quello che diceva l'ascoltatore precedente, cioè non si vede una malleabilità, insomma, da parte di Garcia, una malleabilità tattica che ti permette di affrontare le varie circostanze, le varie partite. Però io farei un discorso un po' più di sistema. Allora, Garcia è arrivato l'anno scorso, io parlo da abitante della città di Roma, costernato da romanisti, laziali, quindi vivo il tifo, non essendo tifoso. Garcia sono è arrivato, è alla terza stagione. È sì. Alla terza stagione, benissimo. Allora, la prima stagione è arrivato, dopo due stagioni deludenti, è arrivato e ha fatto secondo. Ha okay, costruito, quindi... ma no, più che arrivare secondo, ha costruito una Roma meravigliosa. Cioè, al di là di quel secondo po', ha costruito una Roma meravigliosa, coinvolgente, che aveva un suo stile, che aveva quella capacità pazzesca di chiudersi come un pugno e di riaprirsi e partire in maniera fulminante. Insomma, era una squadra perfetta. Poi la Juventus è stata più forte, quel record di vittorie incredibile non è servito a vincere lo scudetto. Però Emanuele, siamo tutti d'accordo sul fatto che quella strada sia stata perduta l'anno scorso, tra la partita con la Juventus a Torino e quella in casa con il Bayern Monaco disastrosa. Da lì in poi è iniziata un'altra storia che sta continuando tuttora. Quello che mi domando è: ma la squadra, sentendo anche le parole di Florenzi, a caldo finché volete, all'interno di quel nucleo, di quel gruppo, la squadra da che parte sta, la società da che parte sta? Perché non mi pare che siano tutti dalla stessa parte, ma non è un mistero il fatto che all'inizio della stagione Garcia sia stato confermato, non dico sotto condizione, ma come, insomma, sorvegliato speciale, mettiamola così, possiamo usare i giri di parole che volete, ma il senso è quello. Allora, siamo a Bologna, alla fiera a Cersaie, non possiamo non parlare con e non misurare la temperatura della Bologna sportiva con una delle firme più conosciute a Bologna, non solo, Angelo Costa, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Come sta Bologna sportiva? Temperatura? nervosa, tendente al caldo, nonostante le giornate uggiose e scure di questi giorni, che sono un po' l'umore anche della città. Da dove partiamo? Dal calcio arriviamo al basket. Da Tacopina che va via, sì, da Tacopina che va via, a degli Orossi che vedremo. Quella ormai è una storia a destro, che non l'ha avuta dentro mai, alla classifica che piange, alla Virtus Bologna che non ho capito cosa sta succedendo. Parti da dove vuoi tu. Allora, cominciamo con ordine. Vabbè, Tacopina è una storia vecchia ed è una storia anche abbastanza logica. Alla fine si sono riposizionate, diciamo così, le gerarchie, e ovviamente chi paga tiene in mano il cordone anche della società. Certamente. Per cui Tacopina magari non aveva con questo suo carattere effervescente una linea un po' diversa da quella di Saputo, che è un uomo piuttosto discreto, riservato, eccetera. Quindi lì è stata risolta. Destro non la butta dentro, perché c'è una squadra che ancora non lo raggiunge, una squadra che ha ancora un cantiere, ed è il motivo per cui la società ha deciso di andare avanti con Delio Rossi, anche perché sarebbe stato abbastanza paradossale dare a Delio Rossi, a campionato già iniziato, una squadra finalmente completa e poi dirgli adesso però non ti diamo il tempo, quindi gliel'hanno dovuto dare. Sì. E questo, diciamo, che è anche abbastanza significativo in un momento in cui, come hai visto, ci sono delle società come il Carpi che invece fanno dei macelli sotto questo punto di vista. Ah sì, quella è incomprensibile. Sì, è veramente una scelta incomprensibile, anche perché fai giocare le partite più difficili a questo allenatore che ti ha portato fino in Serie A, poi... Bravo, come ho detto ieri, perdi con l'Inter, con la Fiorentina, con il Napoli, con la Sampdoria, che vuoi? Sei appena arrivato, esatto, aspetta esatto. Un attimo. No, il dato curioso del Bologna invece è un dato che abbiamo rilevato proprio in questi giorni: è una squadra che, se il campionato finisse, certo, no, poi secco in mano si va da nessuna parte, ma se finisse dopo il primo tempo sarebbe quarto quinto, per cui evidentemente è una squadra che ha ancora bisogno sia di fondo sia di continuità e soprattutto di conoscenza, eccetera. Ma l'ambiente è tranquillo? L'ambiente è moderatamente tranquillo. L'ambiente esterno, cioè la città, è sempre un po' così. Sai, è una città che ha visto anche retrocedere questo Bologna mugugnando senza fare delle grandi contestazioni. Qui non è che si vada in piazza se non per festeggiare. quindi, sì. E quindi alla fine hanno pazienza, aspettano, anche perché hanno visto che comunque l'ossatura della squadra è buona. Poi certo, adesso c'è una partita facile alle porte, perché domenica vanno a Torino dalla Juve, quindi una scampagnata, ma sì, d'altra parte è un confronto, esatto, di bassa classifica, esatto, è un confronto da parte destra della classifica. No, per chiudere, Angelo, spiegami questa storia dell'altra, la storica di Bologna, quella tra i canestri, la Virtus, che sta succedendo? Villalta che va via, cosa è successo? Ce ne sono due sempre dall'altra parte, perché adesso c'è anche il caso Fortitudo, sì, che oggi pomeriggio avrà una continuazione. Tu sai che la Fortitudo non può tesserare gli americani, perché sì, c'è un vecchio allenatore che ha chiesto alla FIBA di vedersi riconosciuto un debito contratto all'epoca della vecchia società, quella che è sparita. Il nodo è questo, ma la FIBA al momento non si è ancora pronunciata, quindi gli americani non ci sono. Oggi ci sarà l'annuncio di un ricorso al TAS, quindi questo è un motivo di fermento. L'altro motivo è stato che c'è stata una diversità di vedute fra il presidente Villalta e il general manager Crovetti. Adesso si è arrivati alla soluzione che entrambi se ne sono andati, o perlomeno dicono di andarsene, poi vedremo come si svilupperà. Il mio pronostico è che magari si possa continuare con la parte operativa, cioè magari con Crovetti, perché tutta sì, questa società l'ha messa in piedi lui, e vedere poi come che ruolo avrà adesso la fondazione, che tu sai che ha in mano questa società, per cui vediamo. Quindi una storia ancora da chiarire. Angelo, grazie. Qui non mancano mai, ringrazio, come vedi, no, i motivi per stare sveglio. Mai per stare sveglio e per scrivere fiumi di parole. Anche altri, esatto. Buona giornata. Ciao Angelo. Ciao, presto. Ciao, grazie davvero. Angelo Costa, Il Resto del Carlino, con cui chiudiamo questa puntata dalla Fiera di Bologna, da Cersaie. Filippo Auregi in regia, Giorgio De Luca, il nostro autore, è qui con me, ma a Milano naturalmente c'è Gianmarco Ferronato, c'è Giovanni Melchiori, insomma tutta la squadra di Radio 24, che venerdì si trasferirà a, bravo Giorgio De Luca, a Genova, al Salone Nautico, quindi eventualmente se vi aspettiamo lì. Ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao.